be against us. If Jah is for my people, I don't know. Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa, dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Africa, I want you to be free. Mama Africa, Africa, I want you to be free. Oh Africa, Africa, Africa, I want you to be free. 06 49 17 50 il contatto telefonico. As I know your system is a block against my people, but if Jah be for us, nobody can be against us. If Jah is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. Africa, I want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa, I want to be free. Onda Rossa si sostiene solamente con l'aiuto degli ascoltatori, si autofinanzia e quindi vi ricordo che il conto corrente postale su cui fare dei versamenti per sostenere Radio Onda Rossa è il 68 80 40 01 intestato alla cooperativa Laboratorio 2001 Via dei Volsci 56 Roma. O naturalmente potete passare qui a Via dei Volsci a lasciare un vostro contributo. Africa wants to be free, like a lion in the jungle. Africa wants to be free, like a bird in the sky. Radio Africa insieme fino alle 18. E cominciamo con una novità. Lei è Rokia Traoré, una delle voci più belle dell'Africa. Lei viene dal Mali, dal suo ultimo album Beautiful Africa, e proprio Beautiful Africa vi voglio far ascoltare un brano in cui Rokia fa delle riflessioni amare sulla situazione del suo paese, il Mali. Como Zaire Kaube Kelemina, a Kobe Kenemisa Keleman in day, Dusuman in day. Oh, Mansaba, Nesson Sumaya Langa, Dusumara. Mes convictions. conviction résiste. Je crois en la sagesse et l'intégrité, l'assurance, la dignité et l'humilité grandissantes dans le cœur de tes enfants. Par la justesse de leurs actes, par leur union et leur constance, connivence et respect mutuel, ils te soulageront des mots qui te rongent. Je t'aime, Afrique, Afrique, je t'aime. Kalamaninde, Dosomaninde, oh Mansaba, Nesonsuma Yalangandu Sumaraye. Wounded Africa, why do you keep the role of the beautiful, naive, deceived? Yet my faith doesn't know failure, more intense than ever. My faith doesn't know failure. I love you, beautiful Africa, Afrique, je t'aime. I love you, beautiful Africa, you're beautiful Africa. Rokia Traoré in questo suo Beautiful Africa, un album elettrico, e questo brano in cui lei appunto parla delle sue vene d'afro progressista, il suo sangue bambarà carico di speranza che brucia e brucia nonostante tutto, però le sue convinzioni resistono, insomma delle parole amare su quello che appunto è la condizione attuale del suo Mali, però è anche un atto di amore, insomma, proclamato nei confronti dell'Africa. E allora 16:38 all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa, rimaniamo ancora nel Mali, loro sono Amadou e Mariam. All right. Woo! Eye mogo bi mogo manyinde unye makominye udayola kufo unye makominye udayola kufo bi mogo manyinde bi mogo tesonfio eye mogo bi mogo manyinde unye makominye udayola kufo unye makominye udayola kufo bi mogo manyinde. Yeah. Amadou e Mariam in questo brano Bimo Go, un brano che ci riporta proprio al blues, come d'altra parte ha dimostrato ampiamente Alifarka Touré. Le origini del blues sono sì nel Mississippi, ma forse si incrociano anche in Africa. Amadou Baga Diogo e Mariam Doumbia, questi due musicisti ciechi che si sono incontrati casualmente, hanno cominciato la loro attività musicale suonando presso Les Ambassadeurs d'Hôtel, e poi il loro incontro con Manu Chao, che gli ha prodotto il primo l'album di Masha a Bamako, e poi appunto il grande successo internazionale. E allora ancora dalle parti del Mali, lui si chiama Abdoulaye Diabaté e ce lo ascoltiamo in questo brano Bafani. Abdoulaye Diabaté, questo bravissimo musicista che proviene da una famiglia di griot, nato a Kela in Mali, e lui è nasce all'interno della tradizione mande, una tradizione appunto in cui ci stanno tantissimi griot, e il suo fratello è Kassemadi, un altro grande nome della tradizione musicale maliana. Lui, Abdoulaye Diabaté, aveva lasciato già a 18 anni il suo villaggio per andare a suonare, era già molto famoso, e poi se ne andò ad Abidjan per finire poi a suonare insieme a gente come Salif Keita, Mori Kanté e Ousmane Kouyaté. Ed è lui uno dei maggiori esponenti anche di quella tradizione musicale mande, tradizione musicale che vede le chitarre soprattutto come protagoniste. È sicuramente uno di quelli che è stato definito come un vero e proprio maestro della chitarra mandenghe moderna, Sekou Bembeya Diabaté. E lui detto anche che ha suonato insieme ai Bembeya Jazz, ed è ispirato a B.B. King e tantissimi altri musicisti, Diamond Fingers, così veniva definito. E allora ce lo ascoltiamo nel suo album solista Guitar Faux, proprio il brano che è dedicato solamente strumentale, che si chiama Guitar Faux, appunto. ci sarà un motivo per il quale Sekou Diabaté veniva definito Diamond Fingers, lo avete potuto constatare in questo brano Guitar Fo, e la storia di Sekou Bembeya Diabaté si confonde con quella della Bembeya Jazz, che è un gruppo che lui fondò nel 1961. E Sekou Diabaté aveva cominciato a suonare da autodidatta fin dall'infanzia, collegandosi con la tradizione, ascoltando da una parte la cora e il balafon, gli strumenti tradizionali, e anche la musica che lui ascoltava alla radio, e che era molto spesso anche musica cubana. E allora questo incrocio che fra la musica cubana e la musica del Mali, che noi insomma abbiamo più di una volta qui durante la nostra trasmissione constatato, viene espresso nelle sue potenzialità da questo progetto che si chiama Afrocubismo, un progetto di Eliades Ochoa, che alcuni di voi ricorderanno con i Buena Vista Social Club. Era quel signore simpatico con il cappello da cowboy. E allora insieme ai più grandi musicisti del Mali, questo incrocio fra la musica appunto tradizionale del Mali e quella cubana. Djerimadi Tunkara, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi della musica dell'Africa occidentale, che appunto suona la sua rumba in questo afrocubismo. Questo brano alla chitarra Djerimadi Tunkara, uno dei leader della Rail Band, l'orchestra della stazione di Bamako negli anni 70. Siamo arrivati a quasi alle 17, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. E allora ce ne andiamo verso il Senegal, dove incontriamo la mitica orchestra Baobab, un'orchestra che sembra veramente vivere quasi sette vite come i gatti. Nasce tanti anni fa proprio in un locale che si chiamava Baobab, in un locale che veniva aperto e frequentato dalla borghesia della capitale senegalese, Dakar, e poi piano piano insomma è un'orchestra che è diventata diciamo l'asse portante della musica Balak, di tutto diciamo così quella corrente musicale che proviene dal Senegal e che proprio in questi ultimi anni ha ritrovato una seconda vita. Loro ce li ascoltiamo da questo bellissimo album Made in Dakar, in questo brano che si chiama Amikita Bai, che è un brano che però è cantato in creolo portoghese che si parla nella Guinea-Bissau e in Casamance, in un ritmo che loro definiscono balsa e quindi una via di mezzo fra il balak e la salsa. Ma ve lo faccio ascoltare, lo sono l'orchestra Baobab. loro, l'orchestra Baobab, in questo Amikita Bai, e ce ne andiamo in Gambia, e praticamente un po' come stare, rimanere in Senegal. Loro si chiamano i Super Eagles e sono stati i pionieri della musica in quella regione che si chiama appunto Senegambia fin dalla fine degli anni 60. E allora ci riascoltiamo in questo brano Gambia Sunus Rave, dove si sentono le influenze afro-cubane. Queste morbide sonorità afro-cubane vengono dal Gambia, loro sono appunto i Super Eagles. Sono le 17.08 e voi siete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, e questa, come tutti i sabati, è Radio Africa. E allora immaginate un progetto musicale che parte intorno all'inizio degli anni 90 da New York, formato da musicisti salsa e che incontra vocalisti senegalesi, e questo progetto è portato avanti da un geniaccio che si chiama Ibrahim Silla, e come arrangiatore Bonkana Maiga, che suonava con i Fania All Star. Stiamo parlando di questo progetto Africando, un super gruppo di musica salsa, di afro salsa, che ha calcato le scene per tanto tempo e che ha coinvolto gente come Medune Diallo, che era proprio dell'orchestra Baobab, Pape Sec e tanti altri. E allora, Yaboy, Africando. Thank you. Yaboy, Africando, e allora sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico, questa è Radio Africa. E allora Gonnan Susu Pierre Kwasi Bi, meglio conosciuto come Gonnas Pedro, e forse uno dei musicisti più conosciuti del Benin. Lui veniva da Lokossa, appunto una località del Benin, ha suonato insieme agli Africando fra il 1995 fino alla sua morte nel 2004, ma è conosciuto anche in patria con il suo gruppo Gonnas Pedro e i suoi Judges Band. Si unì con l'orchestra Poliritmo di Cotonou, e allora proprio lui, Gonnas Pedro, insieme al suo gruppo, in questo La Musica en Vérité. Gonnas Pedro, e allora con Gonnas Pedro entriamo nel Benin, questo piccolo paese ma dal punto di vista musicale veramente grande. Lui, Gonnas Pedro, suonava con l'orchestra Poliritmo de Cotonou, ma c'erano i rivali al nord che si chiamava l'Orchestra Super Borgu de Paracou, e Paracou era proprio, nasceva in una regione dove si incontravano i mercanti musulmani che passavano attraverso il fiume Niger e si incontravano con quella cultura bariba che veniva invece da una parte della Nigeria. Questo incontro e anche questo mescolamento e l'arrivo poi nei tempi moderni della musica moderna africana che proveniva anche dal Ghana nella zona di Paracou hanno creato le condizioni perché cominciasse a nascere una tradizione musicale che poi si è opposta, diciamo così, a quella di Cotonou. E allora l'orchestra Super Borgu de Paracou ce la ascoltiamo in questo brano di Pachanga che si chiama Bori Jo Semon Bazani. Por yo, loro, ancora dal Benin, le volcan della capitale Oja Ka Jojo. La trompeta. Della capitale, prima di chiamarsi così, si chiamavano National Jazz dal 61 fino al 1970 e poi appunto hanno cambiato nome, suonavano rumba, afrobeat, tango, jerk, che è il nome che in Benin definiva il funky, ma soprattutto musica afro-cubana, come avete potuto sentire. E loro erano molto amici dei poli ritmo e suonavano anche durante la rivoluzione del Benin, durante le feste del presidente, degli uomini politici in vista. E in Benin infatti ci fu nel 72 un colpo di Stato da parte del maggiore Mathieu Kérékou, che prese il potere e quindi creò un Consiglio Nazionale Rivoluzionario e portò il Benin verso un'economia, diciamo così, proto-socialista, ma come spesso è accaduto in Africa nei processi post-indipendenza, questa rivoluzione poi, diciamo così, si trasformò ben presto in una forma di dittatura da parte della minoranza etnica che si riconosceva nel potere di Kérékou. Africa 17:29, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Oh yeah, oh yeah, oh every day. Oh yeah, kajojo. Tutti i musicisti del Benin si dovevano comunque confrontare con i grandissimi, la grandissima orchestra Polirritmo de Cotonou, un'orchestra che ha avuto un arco di vita dal 69 fino a metà degli anni 80. E allora l'orchestra Polirritmo di Cotonou ce la ascoltiamo in questo brano che si intitola Écoute, ma Mélodie. Thank you. Polyrythmo de Cotonou, écoutez ma mélodie. E allora dal Benin, un brano un po' particolare perché è un vero beninese rocksteady e lui si chiama Antoine Dugbe. Oh, Super Bowl. Ragazzo! E dai, datti da fa, crea anche tu un fumetto, un'immagine, un disegno contro il carcere. Inviacelo in formato A4 per mail all'indirizzo scarceranda@ondarossa.info. Oppure portalo direttamente qui, nei studi di Radio Onda Rossa, via di Volce 56, San Lorenzo. Oppure portala direttamente nei sotterranei del Forte Prenestino durante Crack, fumetti dirompenti. CSA Forte Prenestino, 20, 21, 22, 23 giugno 2013. Oppure, se te pesa veramente il culo, dici dove abiti e ce lo veniamo a prendere noi. Le utilizzeremo per la produzione della prossima Scarceranda. L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. Perché il carcere nuoce gravemente alla salute. The Truth, di la verità. Lui è Fred Fisher con i suoi Oghisa Dance Band. And rule the world, and that's why many people are not faithful again. They will say the truth, they will refuse to say it. They know everything good or bad, they pretend they don't. Before you, they claim to be angels. All the children of God Almighty. But behind you. Say the Truth, 1979, Fred Fisher è un trombonista, vocalist, compositore che ha attraversato quel periodo intorno alla metà degli anni 70 in Nigeria, che poi ha fatto muovere tantissime cose sulla scena musicale africana. He knows the truth, but he refuses to say it. Truth is bitter, we know that now. But it makes a man to be truthful now. And people, we have trust in you any time of your life. Tell me belong to. I said, tell me if you are a liar. Tell me if you are a truthful man. And people will have trust on you any time of your day. Oh, oh, oh. Say the truth. All say right. The truth. Say it wrong. And let the devil be ashamed. And let it be ashamed. Say the truth. Say the truth. And let the devil be ashamed. Allora, 17.45, gli ultimi 15 minuti di Radio Africa dedicate un po' di aggiornamenti sulla situazione maliana. E allora, situazione maliana che è appunto in movimento. C'è stato un accordo fra i ribelli Tuareg e il governo del Mali che è stato firmato il 18 giugno a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, un accordo che, diciamo così, spiana il percorso per le elezioni previste il 28 luglio, elezioni che comunque sono estremamente problematiche. E allora, dopo 11 giorni di intense trattative, di pressioni e tergiversazioni, a Bamako è stato firmato appunto martedì questo accordo fra i ribelli Tuareg che occupano Kidal. L'obiettivo era quello di permettere un dispiegamento minimo dell'esercito maliano, perché i ribelli Tuareg che occupano Kidal avevano detto esplicitamente che non volevano nella cittadina la presenza dell'esercito maliano e neppure l'amministrazione. E quindi nella cosiddetta capitale dei Tuareg adesso c'è stata questa possibilità di consentire l'arrivo, il dispiegamento dell'esercito dell'amministrazione maliana, così da permettere appunto lo scrutinio presidenziale che è stato previsto, anzi diciamo che è stato imposto dalla Francia per il 28 luglio. E l'accordo prevede il ritorno dell'esercito maliano a Kidali e naturalmente anche un disarmo dei combattenti Tuareg, ma prima di poterli disarmare un spostamento su dei siti di raggruppamento che sono stati decisi. Il disarmo dei gruppi Tuareg invece avverrà una volta che sarà firmato un accordo globale e definitivo di pace fra le nuove autorità che usciranno fuori dalle elezioni presidenziali da una parte e le comunità e i gruppi armati del nord dall'altra parte. E Bamako invece aveva reclamato che i ribelli fossero disarmati prima dell'arrivo dell'esercito, ma questo non è stato possibile, e la mediazione che è stata condotta dal presidente Burkinabé si fonda sostanzialmente su un processo che viene definito DDR, cioè in francese smobilitazione, disarmo e reinserimento. E attraverso questo percorso il presidente Compaoré immagina così una ricomposizione della situazione maliana. Ma il problema in queste trattative erano per esempio il mandato di arresto che la giustizia maliana aveva emesso nei confronti dei responsabili dell'MNLA, del Movimento di Liberazione Nazionale dell'Azawad, dei Tuareg, e quindi naturalmente questi mandati di arresto in qualche maniera erano un ostacolo alla mediazione. A quanto pare si è arrivato anche qui a un accordo. Le reazioni internazionali sono state estremamente positive, guarda caso, sia da parte della diplomazia europea sia da parte anche dei francesi, che hanno visto così di buon occhio questo accordo, perché appunto apre la strada a una ricomposizione, quindi finalmente a queste elezioni che comunque non non risolveranno nulla, anche perché appunto i candidati, poi adesso magari parliamo anche di questo aspetto, i candidati provengono tutti più o meno da una stessa parte politica, e naturalmente le problematiche che sono state, che sono esplose in Mali dopo il colpo di Stato, la sollevazione dei Tuareg e l'intervento militare francese, non si sono naturalmente ancora ricomposte. Saranno elezioni che avverranno naturalmente sotto la supervisione dell'esercito francese e anche naturalmente estremamente controllate anche dagli ingombranti vicini del Mali, come per esempio il Burkina Faso, il Senegal e la Costa d'Avorio, tant'è che appunto sia Macky Sall, il presidente del Senegal, Ouattara, quello della Costa d'Avorio, e Compaoré del Burkina Faso hanno i loro candidati. Ma chi potranno scegliere i cittadini del Mali? Innanzitutto bisogna dire che in Mali i partiti politici hanno tutti la stessa madre, lo stesso padre, cambia solamente il nome, tant'è che tutti provengono praticamente dall'Alleanza per la Democrazia del Mali, Partito Africano per la Solidarietà e la Giustizia, l'ADEMA, che è maggioritario nell'Assemblea Nazionale. Questo partito, diciamo così, si è consolidato e ha avuto in qualche maniera una sua legittimazione a partire dal 1990, poiché in questo partito confluivano tutti gli oppositori alla dittatura militare di Moussa Traoré, che era il despota che poi è stato abbattuto appunto nel 90 dal popolo del Mali. Quindi direttamente o non direttamente i tre presidenti che si sono succeduti alla testa del paese dopo l'alternanza democratica del 92, Oumar Konaré, Amadou Toumani e Diokounda Traoré, vengono tutti quanti da questa matrice, da questo partito politico che si chiama appunto ADEMA. Mamma Africa, Africa. E il paradosso è che anche gli oppositori vengono da questo partito. Quindi chiaramente dei cittadini del Mali al momento delle elezioni del 28 luglio sono scelte, diciamo così, solamente formali, anche perché dietro questo unanimismo alla maliana, come viene definito, dietro la vetrina di un paese che apparentemente aveva conquistato la democrazia, così si diceva, dopo la fine della dittatura, e quindi una successione di presidenti che è sempre stata scandita da elezioni, così, da elezioni democratiche, in realtà di fatti dietro questa vetrina di questo paese si nascondeva una realtà molto più cupa: il saccheggio delle risorse pubbliche, una corruzione generalizzata, delle fortune che venivano fatte appunto attraverso la corruzione e il latrocinio, dei servizi pubblici che non esistevano, una sovranità limitata e un paese oltretutto dove tutto si poteva comprare, tutto era mercificato, dai diplomi al reclutamento nell'esercito. E inoltre naturalmente questo Stato, che era in qualche maniera diciamo che si reggeva su una situazione estremamente labile, estremamente precaria, aveva gestito la situazione del nord in maniera incompetente, da una parte sottovalutando i gruppi armati e le rivendicazioni identitarie che spesso poi si mescolavano ai traffici e alle simpatie jihadiste, e quindi l'atteggiamento del governo centrale di Bamako rispetto a queste problematiche che erano esplose nel nord del paese molto spesso era stato inadeguato. Mamma Africa, Africa. E il male si è risvegliato dopo il colpo di Stato del 22 marzo del 2012, quando appunto Modesto Capitano ha condotto il presidente in una caserma, e poi naturalmente si era risvegliato in maniera molto più drammatica con la rivolta di gennaio dei Tuareg e la divisione in due del paese e l'intervento militare dei francesi. E a questo punto naturalmente c'è molta disillusione fra i cittadini maliani rispetto a queste elezioni, anche perché nonostante l'accordo fra l'MLNA e il governo maliano per quanto riguarda la presenza dell'amministrazione a Kidal, e quindi una ricomposizione solamente parziale, solamente di facciata, unitaria del paese, in realtà dei fatti appunto i cittadini sono molto disincantati, la situazione dei profughi rimane ancora drammatica, ci sono situazioni in cui l'esercito maliano si è lasciato andare anche a saccheggi e a violenze nei confronti dei Tuareg, e c'è appunto un'occupazione militare dell'esercito francese e anche delle sacche di resistenza da parte dei cosiddetti jihadisti che si sono rifugiati al confine fra l'Algeria e il Niger, anzi hanno continuato a fare degli attentati anche nello stesso Niger, che appunto sacche di resistenza che non sono state naturalmente ancora domate. E i giovani soprattutto, che erano stati protagonisti durante la crisi e anche durante certi percorsi elettorali precedenti, non si sono assolutamente entusiasmati per nessuno dei candidati in corso, e perché pensano giustamente che tutta la classe politica ha mangiato abbondantemente in questo ricco piatto, sia quelli che si definiscono oppositori sia quelli che appunto sono a favore del candidato presidente ufficiale. E quindi la maggior parte delle persone probabilmente quando andranno a votare voteranno per una faccia conosciuta oppure per un candidato che in qualche maniera fa riferimento alla loro comunità o alla loro regione, e quindi ulteriormente verranno approfondite le differenze. Il Mali nella realtà dei fatti è un'entità multietnica, mentre invece questa crisi, questa guerra purtroppo ha cominciato a immettere all'interno della società maliana degli elementi di differenziazione e di divisione che purtroppo rischiano poi di essere in qualche maniera di aggravarsi anche attraverso questo processo elettorale. La maggior parte della gente pensa che comunque nelle elezioni si tratterà semplicemente di distribuire zucchero, tè, biglietti da 1.000 franchi CFA durante la campagna, quindi sarà una campagna diciamo che non si reggerà sui grandi temi, anche perché naturalmente l'autonomia dei candidati e del governo maliano è estremamente limitata dalla ingombrante presenza dell'esercito francese. Africa, Africa, Africa wanna be free. E naturalmente ci sono anche dei problemi logistici enormi, perché molti luoghi del Mali non sono ancora effettivamente resi sicuri, fra virgolette. C'è anche un problema di finanziamento, per esempio per quanto riguarda il processo elettorale, e quindi molto probabilmente sarà ancora anche difficile trovare, come dire, i soldi per finanziare questo processo elettorale. E anche se i francesi dicono che dopo le elezioni se ne andranno dal Mali, naturalmente questo non è assolutamente garantito, perché dovrebbero essere sostituiti da delle truppe dell'Unione Africana che ancora non sono pronte per affrontare sul campo una situazione che è sempre più complicata. E quindi 17:59, questo è stato un po' l'aggiornamento sulla situazione del Mali in vista delle elezioni del 28 luglio, di questo accordo che c'è stato fra il governo del Mali e la ribellione Tuareg. E ancora riprendiamo con un brano musicale prima di lasciare il mixer a Soul Peanuts e al suo jazz. Lui si chiama Sedes e il brano è Sagesse Africaine. Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Parir. Quand deux couteaux se battent, le coq se met à l'écart. Le moustique a dit amusement où on applaudit. Lui n'est pas fan de ça, c'est pourquoi il fait attention. La fourmi peut terrasser l'éléphant. La fourmi peut terrasser l'éléphant. La fourmi peut terrasser l'éléphant. À force de trop tailler. E allora, si sono fatte le 18 per questo sabato, Radio Africa vi saluta, ma rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché adesso ci sarà fino alle 19.30 Soul Peanuts e il suo jazz. La bouche de quelqu'un ne tape jamais sur sa tête, sinon attention. Si tu te transformes en crabe, on va te manger avec du bruit. Les moutons se suivent, mais ils n'ont pas le même pied. La fourmi peut terrasser l'éléphant. La fourmi peut terrasser l'éléphant. C'est vrai, hein? La fourmi